prossima settimana. Fatti la manda in Grecia. Fatti la manda in Grecia, baroni. Cosa volete dire? Non so, voi che ti dica. A che distanza parli dal microfono? Cosa? A che distanza parli dal microfono? A distanza di circa 20-30 centimetri. E più o meno va bene così. Non lo so. È un po' papperata la modulazione. Chiara ma papperata, troppo impastata le mani con te, ormai non era così. Ripeto, o hai mosso qualche, perché basta muoverli un millimetro, proprio una fesseria, quelle levrette, andiamo, sì, è proprio la cena. Guarda, prima che vada, l'ultima che c'è giù, l'ultima, stiamo parlando dove c'è scritto meno 12 dB, quindi non giù in fondo, sulla tua destra, c'è una levrettina, ok? C'è una levrettina, e doveva rimanere la seconda tacchetta bianca, se ci vedi, se non ti metti gli occhiali, l'ultima, allora c'è il 1000 che è in alto, il 2000 che è in alto, il 540 che è a metà, e il 270 mi sembra deve rimanere a due lineette in basso. Quanto sono quelle due lineette? Allora, è così, due lineette, vedi un po'? È così, è come lo sto usando io, non è impastata proprio, sì, tutto impastato. Non c'è tonalità né medio alta né medio basso, sì, tutto impastato già. Non so cosa dirti. Vedi un po' pochino. Vedi un po'. Ti sento, non è che tu più tocchi e più danno fai. Dimmi che è al massimo e non toccare l'equalizzazione. Lascia stare così. Però c'è sempre il mio però, non è che voglio dire che mi stai dicendo fesserie, c'è il mio però. Qualcosa è stato toccato, involontariamente non è stato toccato. Perché è impossibile ci sia tutta questa differenza tra la mia modulazione e la tua, capito? Non lo so. Vabbè, comunque. Tienilo così, poi quando arriva l'altra faremo le altre regolazioni. Che te devo dire? Vai, ok, io vi lascio, vado a cenare. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Altrimenti ritenetevi tutti salutati. Ok. Buona cena, buona carica, buon tutto. Anch'io, se ci siete, entro, se no ritenetevi super salutati. Avanti, Sandro. Ok, dai, ce la sentiamo alle prossime. Ciao, Fabio. Ciao, Gianni. È Brecco qua, prima di andare via, se c'è qualcuno. Apri. Come è? Come è così basso? Sia di loro che di segnale. 2,5. Ma è bassa, non è potente, dai. Ti porti, non parlare un attimino, parla, sia se sono portante. È una specie di rumorino sotto appresso ti porti. Thank you. naturalmente le altre volte è più forte. No, già va più che bene. Aspetta, invece non riesce a Sandro, sono andato via. Sandro, ancora ci sei. Poi c'ho dei disturbi sotto, tipo sovramodulazione sento qua. Cioè il QRM è molto alto. Ieri ero già da un po' di tempo che non andava, lo stesso in perfetto stato, col fontanino tutto in alluminio, due o tre strumenti, c'è l'orologio digitale, eccetera, eccetera, manne laterali, un bel apparato diciamo di quelli quartati. Poi c'ho un'altra stazione base, però di nuova generazione, un Intec Multicom 497, quello è il mio preferito, anche se non è un granché come tipo di emissione, però è pulitissimo come ricezione, eccezionale. E poi c'ho un altro Intec, il B3104, sempre stazione base, a 220, questo c'ha l'altoparlante frontale, però non ha il frequenzimetro, c'ha il Roger Beep, eccetera, eccetera, però diciamo la portavo al mare, non è grandissimo per essere un base, però è bello, è discretamente bello. Allora, ce n'è uno soltanto, ma è nuovo, era quello di Luca che abbiamo fatto tutto un giro strano, a quello che ce l'aveva le ho fatto dare una cosa io, che poi a Luca le ha dato un altro baracchino, abbiamo fatto una specie di miscuglio, e alla fine è arrivato a me questo Luis. Sono un po' indeciso se fare cambio con qualcosa di diverso, perché visto che lo sto utilizzando non è che a me le cose ogni tanto è meglio farle camminare, ma è trovare qualcosa di più vecchio, di più antico. Adesso devo parlare con una persona che c'ha un po' di roba e vediamo un pochettino se magari si può fare qualche scambio. A me non me ne frega niente. qua in cima, entro pure. Maggio 92. No, non lo conosco, non ho capito che cosa sia. comunque non è uguale al mio sicuramente. Ok. Stato di base, tu cosa ti è rimasto? Mi hai detto il Comsat. Stato di base mi è rimasto il coso, l'Inuiti mi è rimasto, 23 canali, CB294, uno del Pro Comsat, c'ho un per Sipson, poi c'ho il Col tengo che come Comsat. Quello il Midland a 40 canali con le bande laterali e altro, poi c'era un Sommer che anche da mettere apposta di quello a 23 canali da 10 watt e poi qui in stazione del base c'è un Quese, c'è un Icom, capito, e basta, non ne ho altro. Lo volevo dire, è di vecchia generazione, la roba ricevitori tipo generale militare, cose così, c'è niente? Sì, c'è un coso, un BC312, Roberto. Uno? BC312. Di che marca è? Era come si chiama, di quello che è americano, si chiama BC312, della Signal Corp. Ma funzionante? Certo che funziona. Ma cos'è, a valvole? Sì, a valvole metalliche. E cosa fa? Che ricezione fa? Mi sembra che allora da 1,8 fino a 18 MHz. Ah, 18 non sale, a 30 non ci arriva. Negativo, da 1,8 fino a 18 che non ci arriva. Con quelle balle dei radioamatori le riserveva, quelle per esempio degli 80, 40 metri, quelle le riceveva. Ma là c'è frequenza? No, è a scala meccanica, rompe, nel 1940 mi sembra. E funziona, riceve bene? Sì, rompe, c'ha dei condensatori metallici, anche quelli lì, quello di un condensatore mi sembra che c'era da guardare, però qui a noi compensa verde, me lo butti, non era un problema. Era messo in cassa in un aeroplano militare, il Dino l'ha recuperato non solo a nove, lui ne ha uno suo e a me mi ha guardato questo e funzionava perfettamente. Poi si era calato di ricezione e uno di quei condensatori che però si sente lo stesso, hai capito? E niente, io dovevo telefonare a questo Giannoli Silvano, che questo mi ha un sacco di pesi per... E però poi non sono riuscito più a ritracciarlo, perché era anche anziano, e tanto che non sia anche morto. Quello che metteva le inserzioni di valvole sul circuito elettronico, perché l'altra volta mi hanno mandato anche le valvole, cioè anche valvole di ricambio. E niente, però per davvero mi sono già, non è un problema, perché c'è una cassata, me lo devi portare in laboratorio, c'è una cassata, lo riceve, no, problemi non ce ne sono. E poi di ricevitori evoluti cosa c'hai? C'è i ricevitori evoluti, cioè gli AISO 030, ciò. Sì, è oltre, che va oltre i 30. Niente, oltre i 30 c'ho quello che... lo scanner che c'ha... di come si chiama? Il portatile, il bibanda, quello lì. Però diciamo che con quello non è che ricevi un granché... A me mi piace soprattutto ascoltare, mi sono preso quello che mi piaceva a me, di CR7000, sempre che non faccia neanche pazzia, e mi compro di CR9000, quello con esatto rispetto, che è ancora più spettacolare, ma quello costa troppo, purtroppo non fa parte delle mie disponibilità. Per prendermi quello mi devo vendere di CR7000 e l'R3000, solo così posso fare. Poi me ne pentirò malamente perché l'R3000 è piccolino, maneggevole, comodo, di nuova generazione. Però il 9000 è spettacolare. Lo conosci di CR9000? Sì, lo vedo nei cataloghi, sono sempre con cataloghi in mano, tutto quello che mi capita leggo, hai capito? E vabbè, io diciamo che ho dato un freno a queste cose perché non posso usare, diciamo, spendere troppi soldi che hai capito, ne ho roba, piuttosto mi vorrei mettere a posto l'altro Comsat, il Tenco, hai capito, valvolare, che c'è anche il WFO, quello, e metterli a posto tutti, e poi diciamo l'unica cosa che ne ho per me non me va bene dire, hai capito, tanto mi metterò a posto di andare più tre tutte queste cose, perché a comprare altri apparati non è che, hai capito, se non c'ho patente, non c'ho, e poi anche avendo la patente io sono molto modesto sulla roba di radioamatore, non devo spendere, per carità, perché sono più affascinato dai baracchi vicolari, non è, perché quando non ce li avevo, andiamo a vedere da un altro modulante, capito? Vedevo quello che aveva l'antenna subito CB, quindi facevo subito amicizia. E io dicevo, io ce l'ho, però ho detto, ho in 5 canali, e ho detto, niente, mi piace non posso seguirli, perché all'epoca, diciamo, baracchini da base ce l'avevo, costavano un sacco di soldi, perché li aveva solo gente che ci aveva un tenore limitato, Claudio mi può dare conferma, proprio quando sono usciti già il totale cosa va, un occhio nella testa. Però quelli da base, stiamo parlando che il prezzo del contact all'epoca era uno stipendio, perché tu li incartavano nel 72, costava 139.000 lire, era uno stipendio. Mi hanno mandato una portante, non so chi sia, avanti, chi vuole entrare? Andiamo solo così, adesso fortunatamente già si trova qualcosa ai mercatini, cosa del genere, se sei fortunato, non dico qua da noi, ma sul continente li fanno questi mercatini ogni tanto qualche cosa, perché questi apparati 440, 140, quando usciti costavano qualche milione, quindi non pensare che costassero poco. Il CR7000, il ricevitore che ho io, costava oltre 3 milioni quel ricevitore quando è uscito. Purtroppo c'è qualche simpatico, sta mettendo la portante, comunque il segnale è più forte di te, come si chiama Gianni, però di sotto ti sento io, come radio ti sento, anche se sei più basso di segnale, questo segnale è 9 più 30, tu sei 9 20. Che non lo so, male qualche duo che sta provando qualcosa che non è, che non lo so, a me, diciamo, le portanti a me mi fanno un baffo, non mi sono mai allenato per le portanti. Scusa, mi sono girato un attimino che mi ha chiamato la bambina. No, vabbè, diciamo, lasciamo perdere, è inutile dare troppa corda. Speriamo che sia così, che sia soltanto un problema di emissione, non ci siano altri discorsi. Purtroppo io non sto andando a farti da nessuno, tu non stai andando a farti da nessun altro, non capisco queste cose. Continuiamo, dai, vediamo un po'. Comare qualcuno che sta provando qualche cosa, io posso farmi in un canale così o se si va di radio il conto, però niente, non mi arrivo, per le portate non mi arrivo, non mi interessa, mai arrivato mi sono, proprio per le portate, guarda, non esiste, e quando ho messo la portante non vogliono che io non vogliono che non moduli, non modulo, però c'è problema, non mi arrivo, vabbè. Fai bene, non so neanche tanto, così più tardi e non cambia niente, per cui anch'io sono così, a quel punto spegni tutto, chiudiamo a baracca e a burattini e se ne andiamo a casa a dormire. Purtroppo molte volte diciamo che è una portante, invece ma stanno provando qualche microfono che non è che di radio, ma sono sintonizzati su questo canale e magari ci stanno anche chiamando e niente, lui è ok, è così. Hai capito? E quindi l'unico che vorrei comprare se lo trovo, e sono questi mercatini, sono Claudio di Roma, dell'epoca, il K2 vorrei comprarmi, e lui una cazzata, ecco, però almeno c'è il nominativo e non c'è il tutti i malario, io lo bevo frugato anche da poco in soffitto da papà, non c'è, tutte le scatole gli ho buttato a terra, ho buttato il tanto, dopo mi secca, e io avevo la quartiera, gli avevo fatto una quartiera per i tre canali esterni, non sai, e si valeva più di un apparato di quelli del Delta Kai, tu, perché i quarti non me, gli aveva due per ogni canale, avevo speso a poco, l'ira di Dio. Capisco, ma tuo padre perché era CB anche lui? No, negativo, no, ma lo scusava, che lavorava alle ferrovie dello Stato, non ne aveva tempo, no. Al tale però le è sempre piaciuto, babbo, quando poi l'hanno comprato e che era piazzato, diciamo, in cucina, hai capito, sistemano, prendi queste ore, hai capito, poi la notte l'ho convulcato dove andavo a dormire. E niente, apparati, ho visto a prezzi accettabili. Sì, sì, sì, non so se si trovano. A me piacciono molto i ricevitori militari, non troppo vecchi, diciamo degli anni 60, agli 70, dai, quelli che sono quando sono esistenti già i transistor, anche se le valvole sono più belle, diciamo, le apparate a valvole, però purtroppo col tempo si rovinano i condensatori quando sono troppo vecchi. A me piacerebbe anche averlo funzionato l'apparecchio, diciamo, quelli militari, quei belli apparecchi che fanno da 1 a 30 MHz, da 1 a 28, quelli sono veramente belli, con un frequenzimetro, con un bello strumento, quelli sono quelli che piacciono a me. Ma tu la ESCO la conosci? Scusa, non ho capito. La ESCO la conosci, se vede queste cose? ESCO? C'è questo qui che si chiama ESCO, sono anche cazzato io, beh. Mi sembra che è scritto in novembre con circuito elettronica, cioè il catalogo della ESCO, e c'hanno di questi strutturus che interessano a te, di questi apparati di diverse nazionalità che cerchi tu, e una fesseria e li danno. No, io l'avevo guardato su internet, c'era questo Surplus, si chiama Radio Surplus, mi sembra, che c'è un sacco di roba. Adesso mi, secondo cosa c'è, magari a Natale mi voglio fare un regalo, non so cosa comprare, io ogni anno mi faccio un regalo, niente di importante, dai, cose che dei miei hobby. Adesso sto cercando magari qualcosina carina, se capita qualche occasione, magari, senza che non costi troppo, magari ci posso anche provare. Io lo vedo, regalo, diciamo, me lo sono già fatto, e anche troppo, e ho comprato questo, ho comprato l'IC 290 da 144 MHz, e mi ho comprato due microfoni. Non vorrei essere esagerato, però Claudio mi ha detto che con un centinaio di euro riesco ad avere quell'alimentatore. L'importante è proprio che sia col trasformatore di linea, perché a schede non è comodo. Io sono una vita, te lo dico questo, e lì vanno bene per un baracchino, ma quando c'è cose più serie, più importanti, ci vuole un alimentatore serio. Più grosso lo avete è meglio. Io ho il CEP da 60 ampere continui ed è una bomba. Sì, infatti no, perché hai capito, se c'è una quarantina di ampere qui, si riesce, diciamo, con questo, quando lo metto per FM, mi assorbe tanta corrente, perché sto dando un alimentatore proprio che non è adatto alla stazione. Meglio sarebbe stato trovare l'alimentatore suo a seconda mano, e capito, avrà avuto la linea ancora più. Però detto Claudio, per quella cifra lì si riesce a avere un buon alimentatore, che l'ha comprato Mauro, mi sembra, mi ha detto, al Claudio è in grado di farlo arrivare a prezzi. Però sempre io ho voluto alimentatore col trasformatore di linea, e quello lì, poi per quella cifra la spendo volentieri, capito? L'unica cosa è il regalo che mi posso fare a Natale, quello lì. No, prima di questo avevo quello della linea della Marcucci, non so se l'ha visto, il PS300 da 30 ampere continui, un bellissimo alimentatore, proprio fatto per utilizzi gravosi, c'è regolazione fine della potenza, eccetera, eccetera, connessioni per attaccare tanti apparecchi in contemporanea, ventilato, vabbè. Il CEP non c'ha niente a che vedere con questo, è 4 volte tante o 4 volte più pesante, è tutta un'altra musica. C'è un trasformatore che è più grande di tutto l'alimentatore, però questo qua me lo tengo di scorta, non si sa mai se capiti qualcosina. E infatti no, Claudio è troppo, se no a seconda mano si trova qualcosa di buono. Li ho presi tutti e due a seconda mano. Allora, il CEP è usato, diciamo, non è nuovissimo, anche se è perfettamente funzionante, mentre quello lì è il nuovo fiammante, quello della Missa, guardi il catalogo della Marcucci, questo PS300, quello con gli strumenti, però io c'ho, perché esiste anche la versione senza strumenti, quello è nuovo, sembra uscendo dal negozio. Il problema è che tu quando devi prendere queste cose io faccio una specie di diagnosi a chi mi fa l'interlocutore, diciamo, alla persona, al venditore, me ne dico di tutti i colori, vedo di che parte è fatto, e grazie a Dio, se adesso non mi è mai capitato nessuna fregatura. L'ultimo liceo del 7000 ho preso da questi questo di Napoli sembrava un mezzo blef, alla fine poi ci siamo sentiti, mandato email, telefonate eccetera eccetera, alla fine ho capito, era una persona seria, era un laboratorio, me l'ha testato e tutto, per cui l'ho preso anche se un po' con la cosa del dubbio, ho detto ma l'attento, e mi è andata bene, però ho pagato molto poco rispetto a quello che si trova in commercio. Tutti gli altri apparati, a parte il patch che me l'ha buscato Claudio sempre da internet, tutti gli altri apparati che ho io, vabbè, a parte il 44 che è quello che me l'ha dato lo stesso Claudio, tutto il resto l'ho comprato da internet. No, no, io anche io questo l'ho comprato da internet, però sono da quel fatto a comprarlo da Negrini, che capito, lo stavo facendo così, e ero sul computer, ma no, non per acquistare niente, così la sera ho la voglia, faccio mettere un po' il computer perché ogni tanto carico la scheda, carico c'è la chiavetta, e me ne sto lì, ho detto, anche per la mossa mamma da poco e per non stare sempre, era una distrazione, che poi ho visto, mi sono collegato a questo apparato, questo è l'apparato, detto, che ho sempre desiderato all'epoca, e ho visto che il prezzo non è, era accettabile che faceva per la mia tasca, e che ho comprato, ma poi ho visto l'altro, anche quello di 144 mega, adesso me li mandi tutti i tuoi, me li mandi, e mandati là, c'era anzi compreso in questo apparato l'accordatore, l'MFJ, hai capito, e quindi l'ho acquistato senza pensarci due volte, però diciamo, come stai dicendo tu, quando trovi inserzioni che devi parlare con l'interlocutore che non lo vedi in faccia, che hai capito, dietro il telefono, dietro il computer si può nascondere anche un truffaldino, Sì, no, sicuramente ti può capitare onesto, ma molte volte, anche se c'è da dire, sono diminuiti i truffaldini su internet, su eBay, sono diminuiti tantissimi. Io preferisco sempre, possibilmente, fra tutto quello che ho comprato, a parte l'Intec, base, sempre quel telefono. Non c'è il telefono, raramente, infatti io se c'è l'email dico dammi il numero di telefono e vediamo come si comporta. Se è un po' dubitativo la questione, nel senso che rimane è un po' così, nel senso non te lo vuol dare, a quel punto mi fiago la storia brutta e lascio perdere, però grazie a Dio, ripeto, mi è capitato tutto sino adesso tranquillo, nessun problema, tutto quello che l'ho acquistato. Quelli grossi, l'alimentatore grossi, sono tutti e due radioamatori da dove l'ho acquistato, gente, persone molto molto, come si chiama, qualificate, competenti eccetera eccetera, per cui già dal primo acchito mi sono accorto che non erano degli qua qua qua. Idem l'ultimo Intec, quello base, il più piccolo, lo stesso, questo ne aveva tante di cose, mi ha detto guarda, se vuoi ti posso dare anche altre cose, ho detto no, non mi interessa, qui è andata benissimo. Poi l'R3000 ho fatto uno scambio, cioè avevo un bibanda che mi avevano regalato nuovo ancora con l'adesivo col cellophane, solo non ne facevo niente, ho detto c'ho questa roba qua, me lo ritiri, e me l'ha ritirato, gli ho aggiunto la differenza e mi ho preso la R3000. E infatti, ma quando si parla di questi imbarazzi con queste cose, io ho preso gli iSlope lo stesso, il ricevitore l'ho trovato su internet, e questo c'è il numero di telefono, ma io questa persona l'ho sentita al telefono, persona gentilissima, tutto quanto, ho capito che era una persona come si deve, anzi, mi ha dato il numero della carta sua e direttamente gli ho caricato la carta, ha fatto la spedizione, ben imballato, con tutti i manuali suoi, vabbè. E sono andato bene, però molte volte, hai capito, trovi anche la persona tutta, la persona, diciamo, che riesce, diciamo, a farti lo scacco matto, per non dire le altre cose. Sì, no, ma poi capita, magari se vai al negozio, anche qualche negozio devi stare attento, mi stavo andando l'altro giorno, mi sono attaccato, non è che sono andato, domenica proprio a Bricomer, per dire, sei in un negozio qua a Sassari, che ha avuto un grosso battibecco con questa simpaticona di una di queste capocommesse, cosa cavolera, alla fine ci siamo un po' alterati tutti e due, e sono intervenuti anche le cose, guarda caso per prendere un'antenna che avevo preso qualche mese fa, che adesso questa antenna la sto adattando per il ricevitore, una logaritma logoperiodica che la devo mettere sul rotore per mi fa da 40, mi sembra 600 mega, una cosa del genere, la sto adattando per il ricevitore, in modo che la metto in direttiva, c'è mia direttiva sul rotore, in modo che posso fare anche delle cose particolari che piacciono a me, dei discorsi di ricezione particolari. Appunto delle discussioni con questa scema, ho preso l'antenna è una 3220 e come si chiama? La piazza, vado a montarla e ne mancavano due di elementi. Sono ritornato di lì e c'era il tipo, ma non ci sono problemi, venga qua, ho detto guardi che non c'ho scontrino, non c'ho niente, la busta l'ho buttata via, il contenitore dove c'era questa antenna, venga a me, vado da questo, mi ha fatto un sacco di giri, di studi, alla fine cacchio, ho detto, ma ti credi di essere, ma poi alla fine sono intervenuti i direttori, questa tipa, credo che sia un'altra tipa, un altro tipo mortificati, ci scusi, venga qua, quando vuole, non si preoccupi, lei ha le porte aperte, infatti sono scusate per il comportamento di questa imbecille. No, perché le truppe di questi non è che tu dicono sono dei commessi, degli servizi di gente, hai capito che io la capisco subito al volo, parlo delle scuole per studiare la gente, molte volte mi faccio lo scemo, ma no, non è che io mi stanno mettendo dentro il sacco, cioè, lo scemo quando io sono stato, te l'ho detto, o che l'avevo fatto e niente, però vabbè, molte volte questa gente se non sei attento, capito, che non mostri i denti, allora, capito, succedono queste cose qui, succedono, allora bisogna rivolgersi alla direzione, a quelle cose che sempre, diciamo, meglio evitare, capito, meglio evitare, perché molte volte il prodotto non si comprende più, una volta abbiamo lavorato con Torino della GPC, con quella parte della Lima, dell'Egnanino, pensando che invece poi sono andato a scusarmi con Torino, ho detto la colpa che ho Torino è mia, perché c'ho clienti di RF, ci conosciamo una vita, capito, è della colpa mia, e io quando sbaglio sono pronto a chiedere scusa a Roberto, però non posso andare anche in un negozio come è successo a te, a farti tutti questi giri, c'è una cosa che hai comprato lì in un prodotto loro, hai capito, anche se uno ci butta la scatola, hai capito, che poi mi accorgo, ecco, ci manca questo, che non è completa, allora volevo anche capire, hai capito, dove sono andati a finire, varie roba che hanno esposto prima che poi l'hanno ritirata e sono andate male qui questi che ti mancavano, immagino che sia così, vabbè, però molte volte cose ne arrivano anche imballate che ci manca roba o che sono di vettore, tipo come si chiama che abbiamo comprato noi della Genesite, che non sono solo io, scemo, che l'ho preso, l'hanno preso in tutta Italia questo modello, vabbè, e fa in tizio ogni tanto, cioè, se tutti i colleghi su internet ci sono migliaia di persone che hanno comprato e non c'era nulla. Dimmi un po', se vuoi te ne menziono anche io, stiamo parlando quello con la scheda TV SAT? Sì signore. Allora, quello lì c'ha un bacco, si chiamano, sono dei problemi di software, e l'hanno risolto, perché io quello lì andava in blocco il ricevitore. Dovresti fare una cosa, adesso non me l'ha più fatto, ti hai presente da quando ho fatto questo aggiornamento di software, su internet c'è l'aggiornamento, infatti c'è una comunicazione ufficiale, mi è arrivata via internet, una comunicazione che potevo aggiornare il software, eccetera, eccetera, non me l'ha più fatto quel problema lì. E io ce l'avevo giù a quarta mano, lo tenevo sempre acceso e non lo spegnevo mai, proprio per quel problema lì, doveva, si bloccava il computer interno, diciamo, e la scheda interna del diciamo, il computer, e avevamo il processore interno e andava avanti l'apparecchio, allora dovevi togliere l'alimentazione, staccare l'antenna e reinstallare tutto. Alla fine mi sono rotto le scatole e ho detto no, non fa così. Allora, siccome io leggo di riviste specializzate, anche già nelle prove c'era questo bacco, se ne erano accorti, con questo aggiornamento di software non lo fa più, non ho avuto più problemi. E io vabbè, mi volevo spiegare come fare, perché mio figlio quando l'ho comprato aveva alzato il coso lui per attivarlo dal computer suo, però questa roba qui era rifatta, una roba del genere che adesso hanno mandato un'email, mi ha detto al computer di questa roba che hai comprato, però io vabbè, mi sono state le scatole e il coso, il mercatore che l'ho comprato lì, me l'ha conforama, sapete, sempre me. Che me l'ha preso anche sul sentito con un altro e fa la stessa cosa, tessera e Ma tu sei riuscito a farlo partire prima di tutto? La scheda l'hai attivata, ha telefonato al numero verde, tutto quello lì a posto? Sì, tutto a posto, sono soluzionando questa roba, l'ho comprato l'anno scorso prima di Natale, il 23 dicembre l'ho comprato, ma l'ho sempre battagliato perché faceva sempre questi problemi. E ogni tanto, adesso mi hanno sostituito, fa la stessa cosa, quindi lo devo spegnere e riaccendere, e poi si inizia, diciamo, a funzionare, sta per esempio 2 o 3 ore e lui fa. E poi l'avevo resettato, l'avevo internalizzato, però ogni tanto lo fa sempre questa roba lì. Ma allora se l'hai preso più di un anno non è quello della RAI per vedere i canali RAI e Mediaset quando sono criptati, quando ci sono eventi criptati, non stiamo parlando della stessa cosa però. Sì che stiamo parlando della stessa cosa, io l'ho comprato, vabbè, era appena uscito, è proprio quello che si vedono i canali del digitale terrestre, l'ho pagato 99 euro da Conforama. Quello che c'è la scheda bianca, c'è scritto TV. Sì, una scheda c'ha due alloggiamenti di scheda, c'ha una scheda, io ho questa scheda quando l'ho comprato, mio figlio non ha dovuto via internet attivarla. Se la scheda è bianca, non confondiamo le altre cose, perché ci sono quelle di Mediaset, io ho 2 decoder digitali interattivi, quelli che ti permettono di vedere i canali IP, quelli a pagamento, oltre, vabbè, normali, diciamo. Uno c'è un sacco di anni, è appena uscito, che l'avevo preso col contributo statale, era uno di quelli 300.000, dei primi 300.000 che avevano dati, ce l'avrò 4 anni, ancora non c'era il digitale, l'avevo preso per avercelo già in coso. Con quello c'è la scheda Mediaset premium, diciamo. Poi l'anno scorso, anzi nel 2010, ho acquistato questo decoder della Stessere System, che è l'unico, all'epoca era l'unico insieme ad altri due, non mi ricordo chi lo faceva, abilitato per la ricezione di quei canali quando ci sono, per dire, l'automobilismo, partite di Coppa dei Campioni o cose del genere. La RAI non ha i diritti di trasmissione digitale via satellite, cui vengono criptati. Con questo sistema qua, se tu sei un abbonato RAI, te lo mandano direttamente, gratuitamente, questa scheda. E io ho quel sistema lì. E c'era questo problema di bacco, il telesistema c'aveva questo bacco. E quello lì, mi sembra che PS2000, mi sembra che si chiama così. È una cosa del genere, adesso non me lo ricordo, sì. No, che c'ho anche la prova su, siccome io sono abbonato a, come si chiama, fa Napoli, a Eurosat, da 95, c'ho tutti i numeri. Aggiornatissimo su tutte le discorsi di satellite, TV satellite, TV digitale, terrestre. Ti posso dire vita e miracoli di tutti i ricevitori, perché ho centinaia di prove, sono un grande appassionato, oltre che di radio, soprattutto di satellite, anche se un po' mi si è calmata, c'è un impianto abbastanza evoluto, diciamo, piante non uno, addirittura non due, motorizzati, con parabole di un certo livello e certi tipi di cose, diciamo, posso dire la mia sul campo satellitare, per quello sono sempre aggiornato, io le novità elettroniche appena escono me le prendo tutte, non ti preoccupare. E questa di TV Sat, probabilmente là tu sei uno dei primissimi che l'ha preso. Infatti, ma io l'ho preso che era appena uscito, l'anno scorso era appena uscito, ne avevano venduto quasi niente, voi pensate che erano arrivati il giorno prima, questa roba qui era appena uscito, perché me l'aveva detto Fusaro, a me, per come con digitale, con le antenne a muro, non riceve, e quindi Fusaro mi ha dovuto uscire questa roba, adesso è... Io sono andato a Conforama, l'ho vista, era appena uscito, infatti ce n'erano piramidi, e ho comprato quello e la parabola nuova, perché l'altro ce l'avevo da tanto, quell'altro del collo, e poi gira, per quello che costa, compro la parabola, che è stato, io qui già ho fatto qualcosa a posto, poi di un po' mi faceva questo collo, se era il non valida o illegibile, sostituire, se era controllare il verso della tese, controllata, però lo faceva sempre, tanto che ero usato io in estate a mandarlo all'assistenza e sono tenuto una ventina di giorni, non c'aveva nulla, me l'hanno ridato, lo rimetto e faceva questa cosa, poi mi sono attaccato, se no è dunque scade la garanzia con Conforama e sono riuscito ad averne un altro nuovo di zecca, però fanno stesso problema, lo stesso problema, né più e né meno. Sì, no, lo so, io tutto questo me lo sono preso per portarmelo giù al mare, che c'erano i mondiali in queste estate, poi c'era la Formula 1 e qualcos'altro, qualche programma che li criptano quando non hanno i diritti di ritrasmissione in Europa, cioè la RAI c'ha solo i diritti di trasmissione di certi eventi importanti e così media siete solo in Italia, per cui quando ci sono questi problemi qua, questi discorsi qua non può, cioè tu li vedevi criptati, anche se c'è un ricevitore digitale satellitare. Allora ti avrà l'opportunità con questa scheda di aprirlo, questo segnale è criptato e di vederlo in chiaro. Io ho preso per quel motivo lì, non per altri motivi, perché non me ne fregava niente, ce ne erano altri due di ricevitori digitali, però purtroppo capitava la Formula 1 ed era criptata, non riuscivo a vederlo giù al mare, perché al mare abbiamo solo l'impianto satellitare, non terrestre, c'è solo il digitale satellitare e basta. Però ho notato che entri nel menu tutta una serie di procedure, c'è aggiornamento software e ti mette in modo che ci sono tutte le modalità per tenerlo in aggiornamento automatico, perché tu lo devi tenere, ci sono le modalità, c'è scritto per dire funzionare dall'1 alle 3 di notte, tu lo metti in accensione che se ne va in automatico e si prende, si fa l'aggiornamento di software a quell'ora di notte. E tu queste cose è quello che ho io, e allora? E niente, ho pensato, lasciamo a scoprire tutti questi giri che tanto, se capita, se sono usciti anche altri milioni, lo cambierò. Mi volevo chiedere, ma migliorina la ricevi tu? Allora, satellite o come? No, è satellite. Certo, se riceve sia Videolina che Sardegna 1. E vedete, Videolina ha altre posizioni satellitari, ne ha altri tre di satelliti. Ma perché qui è sparita e vicino di casa, mi ha detto che viene in sede elettronico. Ha detto, mi sembra, ha detto già che la nostra su Sky. Ma non ci credo assolutamente che sarà pagamento. No, Sardegna 1 è quello, Videolina no, non lo so come si è spostata adesso. Vuol dire l'hanno messa a c'è su Sky, certo, e Sky tutti i canali in chiaro te li mette in nude, c'ha prima tutta la programmazione loro, l'elenco dei canali di Sky, e poi ci sono tutte le altre televisioni regionali, Sardegna 1, Tele Lombardia, eccetera eccetera, Toscana Channel, ce ne saranno altri 200-300 di canali oltre Videolina in chiaro su satellite italiani, almeno stiamo parlando. Sì, però adesso io qui non la vedo in questo recorder. Non c'è sparita, no, né io né nel vicino di casa. Dimmi se ha cambiato frequenza. Non lo so, sinceramente non è che la guardi, io ieri l'ho guardata sul digitale terrestre, proprio ieri, satellite non ho avuto modo di guardarla in questi giorni, perché lo sto utilizzando poco il satellite. E no, mi guardo anche le riviste, perché ogni tanto cambiano frequenze, ma mi sembra strano che abbiano cambiato, perché le segnalazioni, allora sulle riviste specializzate ci sono le segnalazioni quando cambiano frequenza, eccetera, eccetera, satellite, ma i transponder normalmente li acquistano, hanno dei contratti che durano un sacco di anni, mi sembra un po' strano. Non che non c'era qualche, come si chiama, qualche, come li chiamano loro, in riparazione, chiamiamolo, può essere che c'era qualche aggiornamento di qualche cosa, molte volte interrompono per qualche ora la trasmissione e poi, ma è una cosa molto rara, non lo so, dovrei verificarlo questo discorso. Sì, perché allora che sono andato lì, diciamo, a guardare, vabbè, non si vedeva, e me l'ha detto anche il vicino, e quindi Sardegna 1 si vede, e qui ho detto, vale, 8 ore che stanno riparando qualche cosa, ho detto, perché ho detto a cambiare così, ho detto una frequenza, una cosa, e poi ero anche incredulo che l'avevano messa a pagamento, come ha detto lui, quindi sto aspettando adesso, stavo facendo qualche riparazione, qualche cosa che aspetto, però mi interessava più che altro, vabbè, per il telegiornale, però lui so che Sardegna 1 pesa poco, lo racconta come Videolina, preciso identico. E siamo lì da più o meno, forse magari un pelottino più professionale Videolina, ma siamo più o meno quasi agli stessi livelli, non ci sono problemi. No, io le private non le sto guardando, raramente le guardo, ma proprio perché preferisco guardarmi, mi guardo molto sport io. Do il calcio, me ne vado su Mediaset Premium, poi mi guardo tutti quei programmi. Oltre alla domenica mi guardo il report, che è un programma interessante dove si dice la verità di tutto e di tutti, senza nascondere niente. Poi, vabbè, come ho detto prima, roba di sport, che mi piace tantissimo, qualche volta qualche film, se c'è qualcosa di interessante, anche se sempre meno a livello di roba interessante, poi non lo so, non più di più, perché tante volte sono talmente stanco, mi leggo qualche cosa, qualche rivista o qualcosa di libro che interessa a me e poi mi curico. Poi io forse lo accedo, quello che stavo seguendo di quella ragazzina poverina, una donna, chissà che fine ha fatto, cioè l'ho seguito stasera proprio per sapere notizie di questa ragazzina che è sparita lì, lo accedo, speriamo che diano delle buone notizie, perché ancora non si sa niente, non si sa, e ogni tanto ce n'è una, e sta diventando, guarda, il mondo una cosa da non credere, ovvero, sono fatto molto una pressione, tutti i genitori, guarda, io sono genitore, mi posso immaginare ciò che non è esagerato, io sono in quale telegiornale a vedere, perché molte volte non ho neanche lo ascolto, e adesso con questa roba della politica, della roba della Gelmini, mi ha rotto veramente le scatole di sentire sempre le stesse cose, no, lo accendo per ascoltare di questa ragazzina, poveretta, e ancora non si è saputo nulla. Mi auguro che si risolva tutto nel migliore dei modi, ma sono pessimista, sono passati troppi giorni, io ho mia figlia di 13 anni, non saprei, impazzirei io se succedesse una cosa del genere a mia figlia, non saprei da che parte tirarmi, è una cosa molto brutta, quando c'hai figli, chiunque siano, grandi o piccoli, questa è una ragazza di 13 anni, non è come quell'altra poverina che è morta allo stesso 15 anni, era già un pochettino più grandicella, frequentava in ambienti un pochettino più grandi, ma questa era proprio una bambinetta che è andata in palestra, è uscita da lì, non lo so, speriamo si risolva, ma io sono molto ma molto pessimista, perché c'era una bravissima ragazza, nel senso aveva delle abitudini, non aveva altri diversivi, diciamo, altri divertimenti, per cui non vorrei pensare male che l'avessero rapita o fatto qualche cosa con questo cacchio di pedofili che ci sono in giro. E anche quello che ho capito, diciamo che hanno parlato anche a scuola, andava bene a scuola, capito, non c'aveva né il fidanzatino, né tutte quante queste cose, quindi anche io mi davo a pensare che non lo voglio dire, però che da pensare che non abbia fatto una brutta, che abbia fatto una brutta fine, capito? Perché come se ci sono passati tanti giorni lì, hanno dove è andata, capito? Se una ragazzina che non ci aveva nessun vizio, che come si chiama uno che non è scemo, pensa subito al brutto. Sì, lo so, purtroppo, mamma mia, c'è troppa gente malvagia in circolazione, purtroppo stiamo parlando di bambini, quella è ancora una bambina, l'altra ragazzina ha 15 anni, però 13 anni c'è ancora una bambina, io quando mi guardo mia figlia, c'ha 13 anni, è una bambina ancora, non stiamo parlando di che hanno interesse del ragazzino, di andare a ballare, di fare, di andarsene sole al mare, mia figlia è ancora così piccolina, nel senso cioè, gioca ancora con i compagnetti, diciamo c'ha il pallone, vabbè gioca a calcio, è diverso stare in compagnia di cose, però non è tipo che adesso esce da sola la sera, è sempre a casa con lui e sappiamo dove va, con chi va, eccetera, eccetera, non è di quelle ragazzine che magari a 15 anni che magari accompagni, la lasci con le amichette, escono in giro a passeggiare, e ancora, grazie a Dio, non è ancora arrivata a quell'età. No, bisogna starci, diciamo io, il mio figlio, io il piccolo, c'ha 16 anni, però quando esce è puntuale. Gli devo sempre non fare la roba che fanno la testa degli altri, ragiona sempre con tante cose, lo presento perché il mondo è cambiato, diciamo, di renderlo responsabile. E poi questa roba qui, anche quando ero ragazzo ho avuto sempre rispetto per le donne, hai capito, sono una persona, hai capito che se io invito una donna a cena, la invito a cena, non per altri, per altri scopi, sono fatto così, sono un gentiluomo, sono, hai capito, poi magari una può anche far intendere, però non sono una persona così, però ci sono proprio delle persone, lo sai, che fanno, diciamo, proprio con certi fini, hai capito, i ragazzi adesso non sono più quelli di una volta come eravamo noi, c'è anche molta malizia e molta, hai capito, non so come, anche questa roba di avvetrare, io subito, da quando ho seguito questa storia, ho detto subito, quell'uomo non c'entra, un cavolo a merenda con l'omicidio, lo sta facendo sicuramente per fare la figlia subito. Io di queste, di quella Sabrina subito ho pensato che era col tempo di quella roba lì, poi così gioco il collo che questa qui ha commesso l'omicidio e il padre sta facendo tutto per cagionarla, perché il genitore per i figli dà anche la vita, quindi ho seguito questa roba, guarda, proprio con attenzione, proprio per vedere dove va a finire. Anzi, stasera hanno parlato addirittura di risuare il cadavere, perché c'erano dei cori che non coincidevano con l'ora di ogni morto, cioè con il dì, adesso, morta e morta, hai capito, con la serve per stabilire l'orario di levare quella povera ragazza di nuovo la sottoterra. Queste cose non è bello farle, che avete in mano delle persone e che il colpevole, se non lo mettevo, sa che quello, niente, però è una cosa, che tu accendi la vita in diretta e sempre, ogni giorno, la stessa musica. Non so, purtroppo è curiosità. Ok, io devo lasciare perché mi hanno chiamato dentro, dai, vado a chiamare qualcosa, dai. Ok, magari domani avrò un po' più di tempo rispetto a oggi, avrò modo di sentirci, dai. Ti saluto, ti ringrazio dal QSO, del bel QSO, saluto gli eventuali amici in ascolto, QRT da parte mia, ciao ciao, alle prossime. Grazie Roberto, allora, buon QRT, buon tutto, buon carico, se non è fatto, e domani io ci attendo, tanto non vado da nessuna parte, non so neanche se andate da uscire, quindi ci ritroveremo senz'altro alla radio. Di nuovo con me, buon tutto e buon venerdì. Passata, alla prossima. Grazie. stazione, non voglio fare il nome, e poi ho la produzione per fare qualcosa che non l'ho applicato da vedere tre più giorni, capito? Quando capito come andavano a fare i trasporti a Urbia, ma questo gli avrebbero risposto, scusate, non capisco, ma niente, che dovevamo comprare noi, capito? No, noi volontari panini vanno fuori, stavamo per la colazione anche, tu vai. Ma il fatto che noi facevamo, ma noi allora io facevo la benzina, no? Mi faceva il buono per il conto benzina. E lui dava a lei e scalava, scalava. Ma scusate, grazie, ma questi soldi che io ti dove sono? Ma se mi sono servito per l'associazione, qua bomba là. Ma che è lì che lo rimetti in tazza, non ho capito. Non vengono ritornati, non ho capito. Bobo. E se poi non c'è qualcosa, fatene dire qualcosa da lì. Vabbè, ho capito. No, noi presentavamo lo scontrino, la fattura e ci rimborsavano, noi a Puglia. Era l'intenzione di rientrare nuovamente nel proprio ambulante. Qua, ho detto, stavo cercando il presidente del soccorso stato, capito? Proprio in chi vive? Dopo che devo entrare, dopo. No, io, boh, vabbè, non c'è il suo parere. No, io ne avrei scelto un'altra, la misericordia, per dire cosa ti posso dire, la Croce Blu. Poi guarda che c'è cosa, ormai l'emergenza, perché non vai a chiedere che ti pagano con la busta paga e tutto, non è successo, è una cooperativa. Olmedo. Olmedo. Sì, Olmedo Emergenza si chiama. Ah, è qua a Santa, no? Di Olmedo. Io ero fino a Olmedo, faccio una volta, me l'avrei fatto se abitavo a Olmedo, quello l'avrei fatto. Ma se io viaggiavo ogni giorno a Olmedo, poi... 300 euro ti fanno conto? Quello sì, quello sì. Ma dove è dentro il paese oppure dove? È dentro il paese. Io ho un amico che viaggia da Porto Torres tutti i giorni, almeno quando c'è il servizio lo fa. C'ha famiglia, è pagato, stipendiato, ma mi metto se vuoi venire, diciamo c'è problema, ti faccio entrare. Però io ho già il lavoro da 30 anni, figurati se me ne vado lì. Però uno che non ce l'ha. Ma tu il numero di telefono ce l'hai questa cosa, no? No, negativo. Il giorno di tempo c'è, se non avanti anche no, ma lo vediamo un po', ma è buono. Non è un'associazione, è una cooperativa. Una cooperativa, eh? Anzi, posso più soculante. K. L'antenna del travaglio, vabbè, io te l'ho detto, poi vedi tu. Io so questo amico mio che da scende, allora praticamente viaggia da Porto Torres quando c'è servizio e va al meno. Lo fa lui, lo puoi fare anche tu. E vabbè, se lo sento, glielo dico, se non lo sento, non c'ho neanche il numero di telefono di Fabrizio, così non te l'avrei detto. Ma tanto tu lo vedi quando mi sono scusato, però lo so, se no. Glielo chiedo, qua, ma non è che c'è il numero di questa cosa qua, ma lo dai, se lo sono un amico, se ci sono anche a sentirlo, per un po'. Cappa, cappa. Chi sei? Poi io ci sono. Beh, dimmi, dimmi, dimmi, parla, io. Vogliamo sentire persone parlare, io. Cavolo. Come cavolo si scrive, Ozan? quel gruppo Rocchettaro, CBC. ACDC, AC, AC e DC. Allora, un attimo di pazienza, non lo devi restare piano piano. Per iniziare devi mettere A e C. A come ancora, C come conto. Devi mettere I, C. Andiamo, va. Battola. Questa è la mano. K. Sì. Ma è molto da... Io non manco, io ci sono ancora. Io ho fatto, cioè sono stato alla Croce Blu tanti anni, e sono stato un po' di mesi all'Avis e poi sono entrato al CIS, ci sono già più di 14 anni. Al CIS sono entrato perché è il campo delle cose, gioca per sé. Esatto. Era solita. Io avevo fatto anche la domanda lì, ma io mi davo una risposta, ma non si scusa. Mi sono stato a me e beh, se no come te la danno se non ci torna. Comunque urgenze non le stiamo più facendo perché ci hanno tolto il... come si chiama, la convenzione con l'ospedale. Per forza devi chiamare loro, per forza non esiste. Come corpo possiamo effettuare le urgenze anche senza chiamare a loro. Noi siamo un'associazione ma un corpo paramilitare, quindi noi se vediamo, cioè, percorso lo, per correttezza lo facciamo come fanno le associazioni, poi se vogliamo possiamo caricare e portarlo. Lo posso chiamare più basso, diciamo, posso andare, no? La, se dipende se è urgenza o no, se è urgenza non la facciamo, facciamo 118. Però normalmente se tu sei su strada, vedi un incidente stradale con delle persone che sono gravi e cose, io piglio e carico, metto la sirena e parto, non me la fotti una che si dice di tutto. E se non le carichi, te va in galera, capito? Vabbè, è quello di soccorso, la maggiore di soccorso, no? E per la macchina così, figurati se per l'ambulanza non è così. Se sei con l'ambulanza lo devi fare. Purtroppo questa cosa della convenzione ce l'hanno tolta perché noi siamo iscritti all'albo nazionale invece che a quello regionale. Ma io dico, se sei iscritto a quello nazionale sei compresi anche in quello regionale, no? Ma chi dove c'era giù a Broto? Non c'è più, no? C'è sempre. Ma la prevede nella torre, no? No, la sede. Adesso c'è l'anno nuova dove c'era prima la stazione. Stazione ferroviaria. Ferroviaria. No, perché io mi ricordavo sempre che era sempre lì, dove c'era la torre, dove con le lampade hanno fatto le bandiere, tutto quanto, ho capito di quei lavoratori. No, lì c'è una di che manca anch'io. Dopo della torre è stato vicino all'Avis, poi dopo vicino all'Avis è stato i campi di Via delle Vigne, poi è stato, e poi gli hanno dato finalmente una bella sede, anche se non l'ho vista e dovrò passarci a trovarli, una bella sede lì a cosa? Alla stazione. Vabbè, no, io mi ricordavo quando c'era il radio di TV. Io quando c'è la radio di non lo so. E me lo ricordo anch'io. E lì avevo conosciuto la Bonanza. Cancaro. A Tore. Tore chi? Tore è quello vicepresidente della radio. l'anno dopo andò nella tua compagna, dai. Qui se c'è, tornerò bene. Yeah. Perché lui ci mi può l'ottore se cosa c'entrava? Sì, era presidente della... Lui era di Sassari, non di Polottore. Ah, c'era anche il servizio di capito. C'era lui, c'era Paolo Sorriere, c'era altra gente. Erano radiomaturi, capito? Non lo sapevo questo. Pagappa. Povero Antonio, non sembra vero che l'avevo visto sul tetto piazzando l'antenna perché abita di fronte a casa, no? Piazzando l'antenna al televisore mi pare che sta. E dopo il giorno anche da se ne è andato, boh. Ha provato la trova che la passata nel bagno, che l'ho fatto, comunque. E poi il Tore era San Piero, lo sapevi, no? Io lo so. Tore lo conoscevo molto bene, sia perché era CB, sia perché il fratello della moglie abita di fronte a casa, quindi venivano qua, ci vedevamo, conosco i figli, conosco tutti, capito? Conosco siamo amici. Allora ti conosco perché con papà erano degli amici, tra quando c'erano allora, quando ero piccolino, c'erano più tra un vero, io e me e a Puglia. Facevano la cosa di esercizio di Santa Mona, Fani, la roba lì da lì. Quelli che avevano il motore all'interno. Allora, stavo per la macchina, l'aspetta di vita. Allora, ero vestito, mi ricordo ancora, ero vestito da... d'azoto. Quasi conto, perché c'era una presa di altro per lavoro ferroviario, quindi ero febbraio, mascherato, certo, va, per carità. Pagato. Tanto. Questi ricordi. Per carità. Io la vita va avanti. Stavate parlando voi, ero concentrato qua. Allora io Giuseppe, l'unico che non conoscevo di figli di Tore era Sandro, che l'ho conosciuto il giorno che sono andato a casa di Tore quando è morto, l'ho conosciuto lì. Figlio le conoscevo tutti e due. E io andare a girare perché non ce l'ho fatta, ho mandato le mani, ecco lui. Era molto combattivo come persona. Certo, ora è stato capitato un braccio, ma sì, ha capitato proprio un braccio anche lì. Per lui ero, mi voleva così bene, certo, guarda, mi sembrava come lo so, no, cioè era bravo, un po' duro di carattere, ma era bravo. Era per il bravo, e per quello che era una brava contro tutti e due, certo. Era una vera etola, era proprio un bigliettaio e nessuno smontava, tu, biglietto, vai a fare la pelle, va, e tu non ti stai più bravo, tu. Non pare perché bigliettaio ha fatto. Ma. E poi quando non c'è più il bigliettaio si è perturbato così. L'abbiamo preso, tutta la cosa sulla stazione, l'altra, avevamo fatto l'altra, la ferrovia. 69. Allora quello che dicevano erano balle. Tutti dicevano, quello della stazione è diventato ricco dalla allevamento di maiali. Magari, sì. Cavavamo anche maiali, però non avevamo partecipato all'altra. filosofia, bene, ma è stata l'altra, capito? Io so come funziona, ho partecipato a tante arti. E non te ne è nato mai una buona? Sì, io ho comprato tante cose. E da lì è lo pitturino, allora oggetti più che altro, e non roba grossa, ma oggetti ne ho comprato molti, ma d'argento, framobili, tutte queste cose qua sequestrate, ne ho preso parecchi. Se non fosse per le tagline che ha combinato mio padre, io sarei ancora lì, non avrei cominciato di mollare la questione, se non era a mollare, perché quindi non voglio essere messo male, non era prima, però manco la giornata tra poco. E la gente già gira lì, girano studenti, gente che viaggia, quello che viene a prendersi i cigarette si prende il caffè, per dire, e sempre c'è un giro. Allo so, sì. Lei non mi ha fatto sentire nulla. Cosa? Mi ha sentito poco. cappello, un ombrello di carta di riso e carta di bambù. Adesso tutte e due le ho messe, eh? Allora. Dopo te le guardi. Ma quella canzone non la cantava a cosa, partiamo. Gappa. Ma, allora se pongo pubblico questo. Cosa? Era Battiato che cantava quella canzone di lui. Battiato è buono, per me esiste solo Battiato, lui che l'ha fatta e lui della canta. Gesù Dio chiede i vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Mori. Cerco un centro di gravità permanente che non mi possa mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Maniera bianca fatta. Ma i filmati che ci ho messo io ti piacciono da morire. Il mio cantatore preferito di quando ero giovane. Comunque è grande da piatto di anni, eh. Beh, l'hanno fatto vedere la televisione, mi sono spaventato. Di 60 anni ci avrà, vero? Era con l'ero stramazzo, ti ho visto quello. Di 60 ne ha, vero? Sì. Perlomeno ne dimostra così, poi non lo so. Ho fatto vedere quando ha cantato insieme. L'altro giorno c'era Matis, c'era coso dalla vita di, come si chiama, Stramazzutti. Si è messo con una trambolanza, a parte che non l'ha lasciata lui, ma è stata lì che l'ha lasciata. Lei si è stufata, deve essere, lei era una minatrice sua, mi lo sai. Perché la moglie, la compagna di era? L'hanno fatta vedere, non lo so, io non la conoscevo. L'hanno fatta vedere, è una boazza, non è bionda, ma è una bella gnocchetta. Adesso con chi era la ultima? Beh, sempre Giambetti, già ne so. Comunque ha 20 anni in meno di Piero Stramazzutti. L'ho fatto vedere quando ha cantato tutti quelli che ha cantato insieme. Come si chiama coso? Ma che canta, che ha una bella voce, la negra. Ma hanno fatto vedere, e hanno fatto vedere anche quando ha cantato insieme a Battiato, l'hanno intervistato a Battiato. Quella del cantava coso, per la prima bella sera. Sì, della Carme Sponsoli. No. È negra che aveva il consulente. Oh, non l'ho capito bene. Tina Turner, ne bai. Ma la negra sì, Tina Turner. Comunque, era solo Mazzotti, ha fatto successo già da ragazzino. E viveva nella borgata di Roma, di Nisi, proprio Bellonfi. E però penso che Gianni Morandi fosse di famiglia più ricca, più boh. Ma gli hanno fatto Gianni Morandi? Gianni Morandi tuttora scrivendo canzoni. Colpa delle cose, ma non so, credo, gioca una settimana a Cannes, la maratona, capito? mai cambiato. Non ho mai cambiato di fisionomia. Mi è rimasto l'eterno giovane. Meno invecchiamo. Se non invecchi potete firmare. Antonio, bombolo. Dici, ti faccio ascoltare un po' di canzoni. Ma sono proprio carreggiate, se gli ho scelte, belle, sono live, sono un concerto. Carreggiate. Sì, io. Detto che ti ho messo apposta per te. Grazie, Antu. Ma manco te la fai, sì. Grazie del pensiero. Io che ti penso sempre. Poi vado a vederle, vado a vederle. E ascoltarle. Appagata. Va bene, lo sai che l'abbiamo messa a posto con l'icifittore? C'è un fascio di luci blu allucinante. Messa a posto, vai. Cappa, cosa hai detto luci blu? Ma, le luci del palco, dai. Ah, perché come sento luci blu, vi siete di San Oriente? Cappa. Di quella che fa al centro di gravità, io ho tutto luci blu, è un bravissimo musicista, non è solo un cantante, è un bravissimo musicista, sia lui che Finardi, quello che ha fatto la Pulceda, quello lì. Lo so. Hai messo a posto il ricevitore? Era solo il fatto 125, erano gli stip che era sbagliato. Se che la notte come l'ho toccato al buio, l'ho toccato qualche altro tasto e l'abbiamo messo a posto insieme a Giuseppe. Che aspettino. Magari non te ne sei manca accorto. Capitale, infatti a me mi sembrava molto strano, No, no, basta che tu invece che cliccare quello di centro, clicchi quello di giù, va su stip, tu magari vai a tenere il volume e cose ti cambia lo stip, capito? E su 125 funziona, se lo vai ad andare su 500, 600, 800, non va, di solo alcuni. Chiaro, vabbè, è una fesseria, era. Magari, ma sono contento perché averlo per non usarlo due anni fa. Capo, ma io te lo dicevo sempre, guarda che sicuramente c'è sbagliata qualcosa. Lo dicevo sempre che mi sembrava strano. Da poi non l'hai mai arrigato tu, se no te l'hanno a poco da un pezzo. Io beh, adesso te avessela fatta. Ho tolto una scritta che c'era Tony, l'abbiamo tolta tutto tanto. L'abbiamo fatto tutto ok. Chiappa, non lo sapete. Negativo. Può capitare, ma provate a risolvere tutto. E al buio è facile che tu al posto di un bottone e tocchi un altro. Infatti non mi fotti più. Chiappa, il barile è un bel strano, ma adesso è una bomba, vero? Deve fare il suo compito, deve fare. Pagato. Adesso sento bene tutti. Chiappa. Infatti. Ma se seria risolvibile. Oh già, è quasi mezzanotte. Non mai lavoro di piano. Oh, che ne sono precisamente? Ho sbagliato quello. Meno 20. Vado. Quanto è che domani dipende dal lavoro? Cos'è avanti? No, ogni tanto vedo il cielo qualche fucina e cazzo. Ho paura che anche venga il cielo da quanto. Paga. Ma dai, buonanotte a tutti. Buonanotte anche. Ciao, Pupoli. Ciao, anche. Ci sentiamo verticale, oppure in frequenza. Ok. piacere, Giuse. Ciao. Ciao. Ma devi essere qua per giorno, vedete, ci prendiamo un caffè assieme, dai. Ma fatti vedere qualche giorno. Se non so dove ci avete deposito voi, no, sarebbe venuto a trovarvi, Kappa. Pochi KM, dove mi hai visto tu l'altro giorno? Ma dove sei? Dove c'è il Twitch, il Twitter oppure? Di Velasita. C'è la Sisa, beh? Lì è. Ah, lì è. E dunque, fuori carti? Ha passato gli armi, comunque già vi ascolto. Ma non c'è un problema, riprendi già. Tu lavori la mangia? No, lì, sono in ferie. Certo, in ferie? Ma no, le sere? Entro lunedì. Ma lì, ecco. Già va bene, no? E a volte, anche troppo. Quando è che vai a buttare quella cosa là, no? A buttare quella cosa là? Hai capito? Mica. Yeah. Ma è troppo bello. Troppo freddo c'è adesso, ti grillo. Non so. Forse la luna di mattina io potrei cambiare il tempo, il cielo dovrei stare a fare per quella giornata. Speriamo. Ci ho fatto in tempo e tempo, sarà la moto. L'ho coperta, è come stata barria. Niente, io sono tornato in Alemania, certo, sono tornato da sotto, perché il mio compare è cominciato a questa grande, io giù, mi sono come due mucche a camminare. Che poco fare così? Ma poi Giuseppe, io ti saluto che già tardi, dai, se non disturbo magari a quelli sopra dei soffro, ai fianchi. Sentiamo, dai, buonanotte e buona giornata per domani. Ok, ciao già, sentiamo questi cari, dai, andiamo con caffè, dai. Lui già, vabbè, dai, ci va, ciao, ciao, ci sentiamo. Ciao, buon buonanotte. Giuseppe.